America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, grande svolta sul fronte del disavanzo pubblico americano con un discorso importante, direi quasi epocale, del presidente Barack Obama ieri alla George Washington University, un discorso in cui Obama ha fatto delle aperture ai repubblicani pur difendendo sul piano retorico alcune delle prerogative tipiche dei democratici. Sentiamo il presidente. In the last decade, the average income of the bottom 90% of all working Americans actually declined. Meanwhile, the top 1% saw their income rise by an average of more than a quarter of a million dollars each. They want to give people like me a $200,000 tax cut that's paid for by asking 33 seniors each to pay $6,000 more in health costs. That's not right. That's not going to happen as long as I'm president. I repubblicani chiedono ad ogni pensionato che oggi gode di un'assistenza sanitaria statale di pagare ciascuno $6,000 all'anno. Perché devono pagare questi $6,000 all'anno? Per finanziare che cosa? Per finanziare, dice il presidente, un regalo di $1,000 miliardi in concessioni fiscali al 2% più ricco della popolazione, ai milionari, ai miliardari americani. Lo scorso autunno, dice Obama, ho accettato una proroga dei tagli fiscali per i più ricchi, ma ora rifiuterò. Dunque Obama parte all'attacco. Di chi? Beh, in particolare di Paul Ryan, il presidente della Commissione Bilancio alla Camera, che a sua volta, repubblicano doc, ha fatto una proposta la settimana scorsa con una richiesta di tagli lungo un periodo di 10-12 anni di $6,000 miliardi contro i $4,000 miliardi da tagliare in 12 anni proposti da Barack Obama. We need leadership. We don't need a doubling down on the failed politics of the past. Rather than building bridges, he's poisoning wells by failing seriously to confront the most predictable economic crisis in our nation's history. The president's policies are committing us and our children to a diminished future. We are looking for bipartisan solutions, not partisan rhetoric. Avete sentito Ryan, giovane deputato, molto aggressivo, uno dei leader del nuovo congresso, della nuova Camera a maggioranza repubblicana, molto aggressivo nei confronti di Barack Obama. Abbiamo bisogno di leadership, ha detto Ryan dopo il discorso del presidente. Questo presidente, ha detto ancora, non sta costruendo dei ponti, sta avvelenando i pozzi. Questo presidente sta ipotecando il futuro dei nostri figli con un'economia che sarà sempre più indebitata. Ecco, una retorica dunque molto forte da tutte e due le parti, però vorrei raccontarvi un po' quello che ho raccolto dalle mie chiacchierate con alcuni esperti della vita politica della capitale. Allora, la storia che ho raccolto più o meno è questa. Beh, Paul Ryan ha fatto delle proposte nel suo progetto di bilancio che non sono facilmente realizzabili, per esempio la riforma del Medicare, che è il progetto di assistenza sanitaria per gli anziani, così come lo vede lui, è un progetto di riforma assolutamente irrealizzabile. Non ci sarà il seguito politico per poterlo fare, neanche in campo repubblicano, perché poi il Medicare riguarda tutti. Dunque Ryan in qualche modo si è sacrificato facendo questa proposta molto provocatoria per stanare Barack Obama, per farlo uscire allo scoperto, per chiedere al presidente di spiegarsi bene e capire fino a che punto è serio nel suo tentativo di voler ridurre il disavanzo federale americano. Disavanzo che ammonta oggi a circa il 10% del PIL, una cifra fortissima. Pensiamo che in Europa i limiti che sono imposti dal trattato di Maastricht sono del 3%. We will make the tough cuts necessary to achieve these savings, including in programs that I care deeply about. But I will not sacrifice the core investments that we need to grow and create jobs. We will invest in medical research. We will invest in clean energy technology. We will invest in new roads and airports and broadband access. We will invest in education. We will invest in job training. Avete sentito Obama? Faremo tutti i tagli difficili, dice il presidente, ma necessari per raggiungere questi obiettivi. L'obiettivo è di arrivare attorno al 2014 al 2,5% nel rapporto fra PIL e disavanzo pubblico. Dunque Obama dice che è pronto ad aprire, a tagliare, anche se alcuni di quei programmi, dice, sono quelli che io ho più a cuore. Poi aggiunge che non sacrificherà gli investimenti di cui c'è bisogno per continuare a creare posti di lavoro, investire in ricerca medica, in educazione, energia pulita, eccetera, eccetera. Ma il passaggio chiave è questo. Obama apre al taglio di certe spese per l'assistenza sociale in particolare. È un passaggio molto importante perché chiaramente è su quello che si potrà negoziare. Non solo, Barack Obama accetta che ci siano $3 di tagli alle spese contro $1 di aumenti fiscali. Di nuovo tende la mano perché i repubblicani li vengano incontro e accettino in qualche modo di sottoscrivere a loro volta aumenti delle tasse per i più ricchi, che oggi considerano assolutamente inaccettabili, in cambio di tagli di spesa forte. Now we believe the reforms we've proposed to strengthen Medicare and Medicaid will enable us to keep these commitments to our citizens while saving us $500 billion by 2023. And an additional $1 trillion in the decade after that. In termini concreti, Obama propone di tagliare $480 miliardi dai programmi di assistenza sanitaria, $360 miliardi da altre spese assistenziali, fino a ieri erano irrinunciabili, fra queste per esempio spese di aiuti per il settore agricolo, $400 miliardi li vuole togliere dal bilancio del Pentagono, cosa su cui i repubblicani resistono, ma in qualche modo dovranno fare anche loro dei passi in avanti, $770 miliardi da spese discrezionali a di fuori della difesa. Ci sono dunque delle cifre concrete. Obama non è sceso poi in dettagli tecnici molto più precisi proprio per lasciare un margine al negoziato. Ci sarà un'altra commissione, un gruppo allargato di politici americani che metterà a fuoco il documento su cui poi si negozierà. Uno sviluppo importante. Non è necessario aspettare necessariamente quella scadenza del 16 maggio di cui avevamo parlato in una precedente puntata, che poteva significare il default del governo americano se non si fosse trovato un accordo per aumentare il tetto sull'indebitamento pubblico del paese. Ci sono dei tecnicismi per cui il tesoro potrebbe tirare in lungo fino a luglio e dunque c'è più tempo per negoziare, ma un accordo per allora, in un modo o nell'altro, dovrà essere raggiunto. Il pronostico, secondo me, è che alla fine i repubblicani cederanno qualcosa sugli aumenti fiscali dopo che Obama ha ceduto sul fronte delle spese assistenziali. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Anche i Jane's Addiction hanno scelto internet per pubblicare il loro ultimo single, End of the Lies, la fine delle bugie. Da ieri è disponibile gratis sul sito della band dei Jane's Addiction, End to the Lies. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.